È stata una serata veramente emozionante per me, in primis, perché noi siamo abituati, insomma, a testimoniare, a raccontare, perché siamo nati da un gruppo di medici e di giornalisti, quindi noi abbiamo una doppia missione di curare le persone, ma anche denunciare le situazioni che vediamo, testimoniare, insomma, far sentire la loro voce. Per cui queste testimonianze le avevamo raccolte mesi fa, le avevo già viste, lette. Però sentite così, interpretate da attori, persone del posto, con quell'emozione, quella passione, poi sono le emozioni veramente che sono veramente quelle che accomunano tutti. Quindi è stato veramente fortissimo intanto per me. Quindi prima cosa, grazie veramente perché hanno preso veramente vita le nostre parole semplici di infermieri, di medici, di persone normali come noi siamo. E noi in effetti questa campagna abbiamo cominciato a progettarla l'anno scorso, ricorderete che è quando è cominciato tutto l'enorme polemica contro le organizzazioni in mare, sono cominciate a volare parole grosse, taxi del mare, amici dei trafficanti, insomma. È una polemica che a noi ci ha scioccato abbastanza perché sono persone normali, le storie che avete sentito ieri, la metà sono andati anche sulla nave, quindi noi un giorno siamo in Siria, il giorno dopo siamo nel Mediterraneo, il giorno dopo siamo nelle vie di Ebola, quindi le stesse identiche persone. Anche io ho lavorato sulla nave, quindi sono anch'io una piccola trafficante in effetti. E alla fine dell'estate, per quest'anno noi compiamo 25 anni di Medici Senza Frontiere in Italia, quindi volevamo fare una bella campagna istituzionale, insomma, per celebrare questo traguardo. Però ci siamo detti: cosa serve in effetti? Perché quello che ci ha fatto più male di tutta questa campagna, vabbè, un po' certo, anche su di noi non è stato bello, però veramente questa campagna non è servita soltanto a colpire le organizzazioni, ma ha proprio affossato l'idea stessa di solidarietà. Perché ha messo in dubbio il concetto stesso di se ti aiuto faccio bene. E chi ha sofferto di più di questa cosa. Intanto, cioè, quel bello qui è stata una campagna infamatoria che ha peggiorato veramente la vita di tutti, sia delle persone che poi arrivano qua e si trovano un muro di odio, di paura, eccetera, ma anche la vita degli italiani pure, che sono stati praticamente martellati, spalmati di questo veleno, di questa cupezza, di questo odio, che ha veramente peggiorato la vita di tutti. E io dico sempre, ma se avessero investito tutte le risorse, l'oratoria, invece che sulle falsità e sull'odio, l'avessero investito sulla cultura, sulla corretta informazione, sul capire queste persone, su farsi un attimo le proporzioni dei numeri, su soluzioni possibili, insomma, per avere delle soluzioni diverse, che effettivamente ci sono, facendo le battaglie giuste, che sono con chi ci deve aiutare, magari, non con chi erano gli unici che veramente ti aiutavano a salvare le vite. Tra l'altro è un obbligo legale, oltre che un imperativo etico per noi. Quindi abbiamo detto: cosa può essere utile? Qualche cosa che possa ispirare tutti. Ci siamo anche interrogati se era il nostro ruolo, perché noi siamo medici, quindi il nostro lavoro è: c'è una ferita, la curiamo. Però abbiamo anche detto, abbiamo un riflettore molto grande, perché l'anno scorso ci hanno conosciuto in negativo, però ci hanno conosciuto anche tanti che magari non avevano mai sentito parlare di noi. Quindi abbiamo detto approfittiamone e lanciamo un messaggio più alto. E quindi ci siamo inventati questa campagna Umani. Il messaggio è talmente alto che però riparte veramente dal basso, perché riparte veramente da che cos'è l'aiuto, che cos'è l'azione umanitaria e che cos'è quel motore che può veramente creare una spinta. Una cosa solo descrittiva sull'azione umanitaria è una cosa ferma. Invece con questa campagna vogliamo un po' mettere in moto quell'istinto all'aiuto che alla fine è proprio di tutti noi, perché se tu vedi una persona in difficoltà vicino a te, è spontaneo, ti viene da aiutarla. Se invece è un racconto di gente lontana e l'invasione, allora fai un passo indietro. E quindi niente, siamo ripartiti proprio dalle emozioni. Tra l'altro anche questo è stato molto interessante perché noi coinvolgiamo sempre i nostri operatori umanitari che MSF è lì, è nei progetti, quindi quando abbiamo qualcosa da raccontare chiediamo a loro di raccontarcelo. E quando abbiamo chiesto loro le emozioni, sono arrivati dei racconti incredibili che sono quelli che avete sentito ieri, perché loro stessi si sono sentiti forse per la prima volta nel ruolo di non dover raccontare un fatto. Allora, ieri hanno bombardato, abbiamo curato questi feriti, questa madre, questo bambino, ma nel raccontare le emozioni che erano proprio le loro e anche quelle dei loro pazienti, delle persone che hanno visto. Quindi siamo molto contenti perché la sentiamo vibrare un po' questa campagna e pensiamo che sia proprio uno strumento che possiamo un po' regalare, no? A ognuno, per cui nel suo piccolo ognuno può diventare un pochino un seme di propagazione di messaggi positivi che, insomma, poi l'abbiamo lanciata ad aprile, quindi prima delle elezioni. E per lui è la risposta migliore a tante polemiche molto basse, a un linguaggio molto basso, molto violento, volgare. Noi non è il nostro stile rispondere in quel modo, non siamo fatti così. E la nostra risposta è questa, è quella dei sentimenti che ti animano, della nostra azione. Posso dire una cosa? Certo. Secondo me è una risposta vincente, perché la differenza è fra coloro che diffamano e che parlano di nebulose entità, di gruppi, i migranti o voi brutti, che cosa sono? Cioè è appunto una nebulosa. Parlare di sentimenti, i sentimenti sono ricondotti alle persone individualmente ed è tanto diverso quando si parla di individuo, quando io e te, piuttosto che io di fronte a un gruppo che ha un nome generico, che magari mi fa paura, per quello, perché non so che cos'è, non ha le facce. Ieri quello che abbiamo sentito è parlare di emozioni che venivano da un individuo che parlava di un altro individuo. L'individuo che parlava aveva un nome e l'individuo di cui si parlava aveva un nome, aveva una storia. Questa secondo me è una strada vincente, perché degli individui, se li presi a uno, non hai paura e li riconosci e hanno una storia. Delle nebulose, degli immigranti o degli tutto, queste cose, i gruppi così, parlare di cui si parla in maniera generica, i gruppi non hanno facce, gli individui sì, hanno facce, hanno cuore, hanno pensieri, hanno le emozioni. I gruppi, le generalizzazioni. Ieri sera hai tirato in ballo l'Aquarius, che è un episodio spartiacque, segna un momento importante, e quindi volevo chiederti la tua verità da un punto di vista interno. Ma la verità è quella che in realtà non raccontiamo soltanto noi, ma quella che racconta da 3 anni anche la guerra costiera italiana. Nel senso, la storia è andata così, le persone hanno sempre cercato di attraversare il mare, perché ci sono delle situazioni in cui semplicemente non puoi vivere, o che per la guerra, o perché non hai qualcosa da dare da mangiare ai tuoi figli, o perché ci sono delle crisi di persecuzione in cui semplicemente nessuno di noi vorrebbe stare. Quindi da sempre le persone si stanno muovendo, e in questi anni abbiamo raggiunto dei picchi mai registrati prima. E il problema è che poi in pratica l'Europa si è chiusa completamente, perché adesso diciamo il focus dei racconti, quelli al negativo, sono dei focus enormi sul momento dell'arrivo. Quindi tu c'hai, che facciamo la metafora del televisore, all'inquadratura che è focalizzata sull'arrivo della nave, quindi tutto lo schermo è pieno di queste persone nero, madonna mia che paura. Invece se tu allarghi lo zoom, vedi un Mediterraneo che è completamente chiuso, non c'è neanche un modo legale per cui le persone possono cercare sicurezza in Europa. Quindi sono costrette ad affidarsi ai trafficanti e a rischiare la vita in mare. Piccola parentesi, quindi chi è che è amico dei trafficanti qua? Perché non siamo sicuramente noi a dargli lavoro, ma sono politiche per cui se non c'è un modo legale mi devo per forza affidare all'illegalità. A un certo punto l'Italia aveva fatto un'operazione molto importante, che era l'operazione Mare Nostrum. Era un'operazione con finalità umanitarie, cioè dopo Lampedusa, quella tragedia di cui ci ricordiamo tutti, sì, hanno detto non è possibile che muoiano le persone nel nostro mare, scendiamo con le navi e le salviamo. Polemiche anche lì, alla fine, dopo dei mesi insomma in cui Mare Nostrum aveva fatto un encomiabile lavoro, polemiche, collusione con i trafficanti, ci fanno arrivare fino a qua, hanno chiuso Mare Nostrum. Pochi mesi dopo, nell'aprile 2015, sono morte 1200 persone in una settimana. Per noi quelli sono i numeri di una guerra, abbiamo preso una nave e siamo scesi in mare pure noi. Nel mare ci sono delle leggi, le leggi marittime, c'è cioè il diritto internazionale, c'è una guerra costiera italiana che coordina da sempre tutti quanti i soccorsi e che a noi ci ha ringraziato quando siamo scesi in mare. E ogni volta a settembre-ottobre, insomma, quando la stagione, i flussi diminuiscono fisiologicamente, ci dicono però tornate presto perché senza di voi noi non riusciamo. Perché tutti i soccorsi sono fatti su indicazione e sotto il coordinamento della guerra costiera italiana, che ti dice mi è arrivata una segnalazione, là ci sono 2 barconi, vagli a salvare, ok, ho preso le persone, che ci faccio? Portali in questo porto, oppure adesso arriva una nave della Marina Militare che ti dà a te le persone che hanno soccorso loro, perché scusa, così solo... Quindi voi recuperate le persone dai barconi, non li prendete direttamente, perché questa è una cosa... Che li prendiamo direttamente da dove? da coste dove no, noi lavoriamo in acque internazionali, quello è il racconto, e questo che... è il racconto che fanno, per c'è tutta una realtà parallela sì, che uno arriva in prezzi, ma non è possibile, cioè, allora il racconto, non so se c'è rimasto nella fine ieri sera della serata, poi dopo ti faccio leggere l'ultima testimonianza che è stata letta, che mi ha fatto venire i brividi, anche se l'ho già letta mille volte. Quello ti racconta che cosa succede veramente in mare. Noi stiamo in acqua, allora i naufragi arrivano sempre, succedono sempre in un certo punto, perché le persone partono dallo stesso, più o meno dagli stessi punti della costa libica, si mettono in mare, queste barchette su cui li mettono sono completamente inadatte al mare, precarie, e, insomma non potrebbero affrontare una traversata, quindi a un certo punto c'è il rischio di naufragio, c'è, quindi avvengono più sempre allo stesso punto, è lì che si mettono le navi umanitarie. Perché questo? Perché noi siamo navi, noi come anche altre organizzazioni che ci sono navi che sono nate per fare quel lavoro lì, quando non c'era organizzazione quei soccorsi li facevano i mercantili, come adesso stanno rifacendo, visto che stanno ostacolando le navi delle organizzazioni, ma il mercantile sta lì a fare il suo lavoro, stanno trasportando i carichi eccetera, non hanno i medici, non sono attrezzati per fare il soccorso in mare, non hanno neanche la struttura giusta. Quindi noi ci posizioniamo lì nelle acque internazionali, che comunque è una cosa enorme, per cui tante volte i barconi neanche li vedi tu. La Guardia Costiera riceve gli alert e ti dice: guarda che a quella latitudine e longitudine c'è un barcone da soccorrere. Tu ci vai e soccorri. Tante volte quando arriviamo le persone sono già in acqua perché il gommone si è affrosciato, poi sono condizioni allucinanti perché si creano delle pozze di acqua e carburante all'interno del gommone, per cui le persone sono sedute nel carburante e ci arrivano ustionate e noi curiamo le ustioni. Sono disidratati perché magari sono ore che stanno in mare, magari hanno fatto tutta la notte e la notte il mare, io ci sono stata a lavorare sulle queste navi, è nero, non vedi, sei nel nero. E quindi quando, una volta che abbiamo fatto il soccorso, la Guardia Costiera italiana, in accordo con il Viminale, ci dice in che porto portarle, e fino a la volta scorsa è sempre stato un porto italiano. Perché? Perché per la legge del mare, non per volere delle organizzazioni, il soccorso finisce quando le persone sono arrivate in un porto sicuro, e deve essere il porto sicuro più vicino. Un porto sicuro significa che non deve essere un paese in guerra o in crisi, e che deve garantire una possibilità per le persone di fare richiesta di asilo. Ok, quindi per esempio la Tunisia questo aspetto non ce l'ha, quindi ecco perché non è considerato un porto sicuro. E Malta, così, molto piccola, inoltre non si è mai presa la responsabilità dei soccorsi, adesso è quello su cui adesso il governo italiano sta un po' puntando, per cui fino adesso è stata sempre l'Italia. Quando ci facciamo il problema, perché non li portate in Francia, perché non li portate in Spagna? È il Viminale che ci dice dove portarli, noi in mare non decidiamo niente, anzi uno forse dei pochi progetti in cui anche MSF, che comunque è un'organizzazione indipendente, che non prende finanziamenti da nessun governo, e quella è la chiave della nostra indipendenza anche d'azione. Forse è l'unico momento in cui siamo veramente coordinati al fine da un'autorità governativa. Questo è il motivo per cui l'anno scorso non abbiamo firmato il codice di condotta, perché lì sarebbe stato entrare proprio in un sistema governativo, che per noi non è possibile, perché mentre ci sono alcune organizzazioni, la maggior parte delle organizzazioni che sono adesso in mare sono nate per il mare, quindi come progetto hanno soltanto una barca. Noi invece sono 50 anni che lavoriamo, siamo in 72 paesi, siamo in Libia per esempio, siamo nei paesi in cui le persone arrivano, quindi noi dobbiamo per forza essere indipendenti, se no, se ci alleniamo in una cosa del governo italiano, se poi gli accordi tra Italia e Libia non vanno a buon fine, noi abbiamo le persone, i nostri medici sono nei centri di detenzione in Libia, quindi la loro sicurezza è messa a rischio. C'è una logica molto seria rispetto alle decisioni. Quindi in pratica questo qui è come ha funzionato sempre. Adesso il governo con l'Aquarius, insomma, ma non perché era l'Aquarius, perché adesso lo sta facendo anche con le altre navi, sta facendo il pugno duro con l'Europa, insomma, quello secondo me ha anche ragione. Noi quando siamo scesi in mare siamo scesi con un messaggio molto preciso: noi stiamo arrivando ma mettiamo un cerotto, però il mare, la ricerca in mare non è la soluzione, bisogna fare vie legali e sicure in maniera che le persone non rischiano la vita, non muoiono, è tutto controllato, poi i documenti, cioè ognuno con vie legali e sicure tutti sarebbero contenti, noi perché la gente non muore, i governi perché è tutto controllato, eccetera eccetera. Poi abbiamo chiesto sempre, noi siamo in mare ma non è il nostro ruolo, gli stati europei insieme all'Italia devono mettere loro le navi, devono fare un soccorso che sia coordinato a livello europeo, e poi soluzioni condivise per l'accoglienza, perché ha ragione l'Italia che alla fine abbiamo fatto tutto noi, ma quella era la nostra stessa battaglia, da 3 anni che siamo scesi in mare, siamo scesi con questo, con questi messaggi che sono per l'Europa, abbiamo fatto dei paginoni sui quotidiani italiani, vergognati Europa, era il nostro messaggio, non vergognati Italia, adesso abbiamo dovuto anche farti di vergognati Italia, perché è assurdo, 630 persone, e molte erano già in acqua, li abbiamo tirati su noi dall'acqua, due persone sono morte quella notte, hanno attraversato la Libia, tutto quello che hanno passato, sono state costrette a fare altri giorni in mare, 9 giorni in tutto, dopo tutto quello che hanno già passato, quando noi abbiamo detto, non li vuoi in Italia? Perfetto, ci fai sbarcare, in Italia a Malta a noi non cambia niente, basta che sia un porto vicino. Abbiamo visto la costa, per 5 giorni di navigazione c'era una costa a vista e le persone pure ci dicono, ma è lì che andiamo? Ancora no, è lì che andiamo, è la Corsica, è la Sardegna, insomma. E abbiamo detto, fateci sbarcare e poi li trasferite in Spagna dove volete, ma poi di sicuro in aereo. Invece non è stato possibile. In più tutto questo viaggio accompagnato di nuovo dai bici scafisti, l'Aquarius che è partita dalla Libia, quando mai? Non è possibile, cioè la guerra costiera libica a noi ci ha sparato, l'anno scorso hanno sparato anche la nostra nave. Che non viene detto mai, però. Infatti, il problema è che non viene detto mai, il problema è proprio questo, nel senso che hanno fatto un racconto di una realtà parallela, di una propaganda basata su delle falsità, che però è stata a reti unificate ogni giorno per mesi, quindi le persone hanno ragione, io non posso essere esperta di tutto, quindi mi fido anche di quello che mi dicono i miei governanti e chi mi rappresenta. La cosa inaccettabile è che loro sono liberi di dire delle cose in maniera.